Benvenuti. Benvenuti fratelli e sorelle. Allora, oggi siamo qui in concorrenza con la partita dell'Italia. Grazie che siete venuti. Italia fuck off, dice Cristina, giustamente. Per presentare il libro Dalla parte del torto, di Dome la muerte e Pablito il dritto. Un libro che abbiamo fatto uscire a novembre, credo, che si sta facendo valere perché è un libro bello da leggere, d'un fiato come la storia che Dome ci racconta della sua vita da musicista pazzo totale. Io sono amico suo dai tempi del punk, da un casino di anni, e so che lui è un musicista, però... Un libro era ormai doveroso farlo, arrivato all'età di 70 anni ormai quasi. Da bene dell'altri, vai. Con tutti i palchi, tutti i gruppi, uno più sperimentale dell'altro, anzi quando una cosa diventava un po' noiosa cambiava completamente e faceva tutt'altro. E per tutta la vita ha fatto così, Dome. Incredibile sperimentatore, uno dei chitarristi più... importanti della nostra generazione. Un applauso grosso a... Non credevo possibile fare un libro con lui. Non credevo possibile. Però poi è arrivata la pandemia e Pablito e Dome si sono incontrati. Allora, ora questa ve la racconto perché è interessante. Anni fa io vivevo in Toscana, facevo una vita abbastanza discutibile e andai a vivere a Pisa per un caso strano della vita. E entrando in questo bar una domenica sera c'era questa musica goa e c'era questo DJ vestito da rocker e questi ragazzotti che non erano i classici discotecari, anzi erano un po' neopsichedelici, un po' raver, un po' rocchettari, tutti che ballavano, tutti quanti ballavano, pure il barista ballava. Allora io entro e dico, vabbè, metto a ballare anch'io. A un certo punto vedo Dome che mette i dischi, che non lo conoscevo, non sapevo chi fosse, e dico, sai, sono anch'io un DJ. Lui mi dice, guarda, volevo uscire a fumare, quindi metti il disco dopo. E così ci siamo conosciuti. Poi da lì, siamo rimasti in contatto. E negli anni poi lo seguivo... No, e lì l'ho sempre detto, ma perché non fai un libro, perché non fai un libro, perché non fai un libro? E alla fine è arrivata appunto la pandemia, quello che diceva Marco. Quindi io la pandemia l'ho trascorsa da solo, io vivo da solo e stavo andando in depressione, perché soffro un po' di depressione. E Dome è anche un po' simile a me per certi versi da questo punto di vista. E un giorno ricevo una chiamata. E Domenico mi dice, come stai? Insomma, lui mi dice, guarda anch'io, ma perché non si fa quella roba lì che si dice da anni, no? Io ti chiamo tutti i giorni. E infatti gli ho detto ok, e allora lui mi chiamava tutti i giorni. Ho cominciato a scavare nella sua vita, cioè da quando la famiglia, insomma, dall'adolescenza eccetera eccetera, fino ad arrivare ai giorni nostri. E ogni giorno con questo lui mi telefonava con un telefono così e io rispondevo con un telefono così e registravo quel che usciva fuori, poi sbobinavo e alla fine dopo un po' di giorni avevo almeno un'idea vaga di quel che aveva combinato, anche se già lo conoscevo. E poi piano piano abbiamo aggiustato il tiro, no, perché certe cose non le capivo, certi passaggi, poi lui non si ricordava le date, le cose. Però alla fine è venuto fuori, secondo me, un bel romanzo. Perché, allora, non è un memoir, cioè c'è la storia di Dome, le memorie, diciamo, di Dome. Però c'è anche tutto un ragionamento che è più ampio rispetto a quello che è la storia individuale di un musicista, che è la storia di tutti i movimenti che Dome ha attraversato. Da comprimario, no? I movimenti non è che li fanno dei leader, li fanno le persone. E lui ha attraversato la scena hippie, la coda della scena hippie, è stato un grande innovatore, perché quando il punk rock ha cominciato a attecchire nel paese già suonava hardcore, e quindi ha portato l'hardcore italiano a essere riconosciuto a livello internazionale con i CCM. E poi dopo, quando l'hardcore si stava affermando come genere, lui si ruppe le palle e virò e cambiò un suono e abbracciò un suono losangelino, un suono americano, più rock and roll, e con i Not Moving, e fino poi ad arrivare a esperienze più le ultime, diciamo, con i Diggers, con MGZ, con gli AXP. E quindi il viaggio è un viaggio nella musica, però c'è anche tutto un viaggio in tutto questo sottobosco di persone, chiamateli anarchici, cercatori, non so, liberi pensatori. È un po' la storia di tutti noi, magari dei nostri fratelli, babbi, mamme, ideali, no? Insomma, un po' questo è il libro. Direi che no? Sì, non è una vera e propria biografia, come hai detto te, è una storia collettiva, è la storia un po' di tutti noi. Infatti Pablito, quando mi ha telefonato, mi ha detto: guarda, non voglio fare una biografia. L'ho detto: non lo dì nemmeno per scherzo, che mi sto già toccando, perché il libro me lo proponevano già da tempo, però io dicevo sempre: no, è una cosa da reduci, la farò quando smetto di suonare, poi magari faccio il libro. Finché sono sul palco il libro non lo faccio. Poi invece niente, io e Pablito tutti i giorni ci siamo sentiti per un mese e mezzo, per tipo un'ora e mezzo, due ore al giorno, sempre alla stessa ora, dalle 3 alle 5. E niente, abbiamo tirato giù, lui appunto mi intervistava e poi tirava giù tutto, mi mandava le prove, io gliele correggevo, così. Poi è vero, io ho dei vuoti di memoria sulle date, queste cose qui, per cui gli ho toccato telefonare a un sacco di gente della scena: di, ma quella cosa che mi ha raccontato Dome, ma che già anno era? Lui mi ha detto 85, no guarda, era 87. Insomma, è andata così, è stato un po' un lavoro in cui ci ha messo le mani poi anche Filopat, altra gente, insomma, per raddrizzarlo un attimo proprio su queste informazioni. Niente, alla fine poi si è fatto. E mi ha convinto col titolo, perché quando mi ha telefonato la prima volta mi ha detto: Dome, c'ho già il titolo dalla parte del torto. Ho detto: no, vabbè, con un titolo sì, di no, non te lo posso dire. Allora, siccome già dalle prime letture che noi in redazione, io Paola, che adesso non c'è, se è già andata via, abbiamo fatto l'anno scorso, in agosto proprio, la prima lettura che ho fatto, mi ero reso conto che era un libro che si leggeva proprio bene, d'un fiato. Sono stati bravissimi in realtà, anche perché due che sono abituati sempre a stare dietro o sul palco dietro a socializzare in mille modi come fa Pablito, perché tra vendere libri, fare il DJ, sempre in mezzo alla gente, era praticamente durante il lockdown scorso, marzo, aprile, maggio, se c'erano quelle due ore magari mi perdevo due amici in una volta io, perché quindi sono riusciti a concentrarsi tanto, ed è venuto fuori praticamente subito dalla prima lettura. Me l'ho accorto che era un libro della Madonna, e poi dopo ci abbiamo anche lavorato parecchio per rendere la scrittura più fruibile possibile, ed è un'epopea, è venuto fuori questo libro. E poi insomma, appena uscito abbiamo subito avuto degli scontri incredibili, perché tutte le persone che lo leggevano erano molto contente, infatti anche le vendite stanno andando molto bene di questo libro. E a marzo scorso c'era un altro lockdown, era il giorno del mio compleanno, pochi giorni prima mi aveva telefonato lui dicendo: forse finalmente riesco a fare una trasmissione web, quelle delle solite, però su un palco. Lui mi ha detto, ho trovato un teatrino, tra l'altro bellissimo, come si chiamava quel teatro? Teatro Rossini. Teatro Rossini di un paesino, vicino a Serbia, un paesino vicino dove abita lui. E allora ho detto, come regalo del mio compleanno voglio andare a fare un viaggio, non ce la faccio più, mi faccio l'autocertificazione per un libro, che cazzo me ne frega, me ne vado via, non ce la facevo più. E l'ho detto anche a Pablito subito, ha detto sì, andiamo a fare questo reading, questa presentazione musicata del libro dalla parte del torto. Col teatro vuoto, cioè è stato bellissimo vederci, perché appunto c'era questo libro che ci univa tanto, e però il teatro era vuoto, c'erano solo due cameraman, tre forse, non ricordo, e abbiamo fatto una cosa un po' triste, naturalmente, però abbiamo capito che era molto bella. E quindi adesso a Pisa, la settimana scorsa, abbiamo fatto questo reading con l'aiuto di Cristina, perché lei ci voleva, e questa è la seconda volta che lo facciamo, e abbiamo proprio preparato anche un set fatto appunto da Cristina, che ha fatto i quadri apposta per questo reading. Ed è un reading secondo me bellissimo, perché da una parte si legge un po' di brani del libro, io e Pablito, da un'altra parte lui ci segue con le canzoni, con tutta la sua storia, la sua carriera da musicista, appunto partendo dai pezzi più hippie fino ad arrivare al giorno d'oggi, e Cristina legge anche delle poesie di poetiche, perché chiaramente Dome si parla tanto di musica, però lui ha abbracciato tutta le varie diramazioni dell'underground, della cultura underground. C'era qui prima Matteo Guarnaccia, che lui ne parla tanto, ma ad esempio Allen Ginsberg e Lance Armstrong, che sono due poeti importanti, tra i più importanti del Novecento. No, niente, io basta, devo dire qualcos'altro? Parte adesso, parte allora. Ma io farei partire tutto, la macchina è già avviata. Partite, parte Dom, un altro applauso Dom. Istante in cui vi svegliate alla vigilia di un importante avventuroso viaggio, state iniziando a leggere un meraviglioso trip cosmico nella realtà distorta e allucinata della galassia underground. Il vostro cicerone sarà Dome la Muerte, figlio di immigrati del sud degli anni 50 del secolo scorso, eroe dei bassi fondi, apprezzato fino all'idolatria dai fan e addetti ai lavori, semi sconosciuto dal pubblico e dalle major, dal quale è sempre rifuggito. Dome ha attraversato ed è stato pioniere delle scene più sperimentali che si sono affacciati nei decenni sui palchi di tutta Europa, dai più grandi e celebrati fino a quelli più piccoli e marci in qualche scantinato di campagna o all'estrema periferia delle metropoli. Un Virgilio vestito di pelle nera, con un vissuto in prima linea, vi accompagnerà nei gironi infernali e sulle vette dell'Himalaya, scartando con uno stridente assolo il triste e quieto purgatorio che interessa solo ai benpensanti. sarà un lungo viaggio, dagli anni 70 fino ai nostri tempi di pandemia, un cammino costellato da concerti rabbiosi e sudati fino alla disidratazione, estenuanti registrazioni in studio, sostanze psicoattive al limite della sopportazione umana, feste notturne sistematicamente conclusi con l'arrivo della polizia, risse finite al pronto soccorso, sesso libero, amori stratosferici, deliri e tenerezze comunitarie, arresti e processi a non finire, una dose smisurata di selvaggio rock and roll. Dalla cultura hippie dei free festival al glam rock, dal prog al blues elettrico, dal violento e scatenato punk alle sonorità disperate e caotiche del post-punk, dal grunge all'elettronica, dalla neopsichedelia alle interminabili cavalcate rave delle tante retromanie fino agli ultimi spartiti extrasensoriali del presente. Dome, Dome, non ha mai perso un colpo. E da sempre si è schierato sul fronte di chi difende la bellezza della musica. E da quelle trincee, da quei palchi infuocati, ha più volte afferrato il manico della sua chitarra colpendo in faccia chi la voleva infangare con il business. Per tutte le etichette con cui ho lavorato negli ultimi anni, la passione e la qualità del progetto vengono molto, ma molto prima del profitto. Dice Dome nelle note finali di questo libro, ed è questa la fondamentale ragione per il quale il viaggio che farete leggendo sto libro vi sorprenderà a ogni pagina. Questo suo totale rifiuto alla mercificazione, animato da una spinta ideale contro tutte le ingiustizie, agisce come un potente antidoto al conformismo in qualsiasi sua subdola incarnazione, e vi farà capire come si crea uno show indimenticabile, come si suona dal vivo per suscitare sensazioni fino al midollo e come si gestisce il delicato rapporto tra pubblico e artista. Allora c'è lettura, scusa, c'è lettura di intro, questo è il mio, quello per le partite sul Dylan, tu. Ma Dylan ne aveva detto che non avevo scappato di casa, ah, la storia del sennò poi sarebbe lasciato tutto. Qua si parla di scappati di casa, so qualcosa. La mia è una generazione di scappati di casa. Scappavamo da soli o con la ragazza, scappavamo a piedi, in moto o in autostop. Scappavamo per andare ai concerti e ai festival, in cui si formavano aggregazioni giovanili temporanee di decine di migliaia di giovani. In questi contesti si sviluppavano un'infinità di relazioni interpersonali. Rivendicavamo non solo il diritto alla musica gratis o a prezzi popolari, ma anche la possibilità di vivere in un'altra maniera, lontani dalle catene della famiglia, della morale cattolica, della logica dei sacrifici e del lavoro. Una volta sono fuggito per assistere a uno strepitoso festival di 2 giorni al Palazzo dello Sport all'Eur, a Roma. In cartellone c'erano Weather Report, John McLaughlin, i Perigeo, Tony Esposito e Bill Cobham. Era un super evento jazz rock, pieno di giovinastri come me, che certo non avevano soldi per una sistemazione notturna. Prima del concerto dormivamo nei sacchi a pelo, nei dintorni del palazzetto. Siccome mi avevano detto che l'Eur era un quartiere fascista, mi ero portato dietro un coltello da caccia, un oggetto che peraltro stranamente ancora conservo. Dormivo senza tenda, sotto gli alberi, e avevo una paura fottuta. Avevo visto Easy Rider e temevo di finire ammazzato da 2 esotici violenti come i protagonisti del film. Quella notte vidi girare un maggiolone scoperto, un'auto che era il simbolo delle squadracce dei neofascisti dell'epoca, proprio nella zona dove stavamo noi. Scorrazzando, gridavano e ci insultavano. pensai che ero stato previdente a portarmi la lama, anche se per fortuna non ebbe bisogno di usarla. Come ha detto Fabrizio, per noi, per la nostra generazione, la vita sulla strada era un mito e quindi per noi erano degli eroi gli Obo, raccontati da Dylan in questo pezzo, questi pazzi visionari che saltavano da un treno merci all'altro su e giù per l'America, di cui Woody Guthrie era il leader, e questa è dedicata a loro, si chiama Holly e Hobo. To sing this sad song, leaving nobody to carry him on. He's only a hobo, but one more is gone. Does it take much of man to see his whole life go down? To look up in the world from a hole in the ground? To wait for your future like an horse that's going? In a gutter and die with no name. He's only a hobo, but one more is gone, leaving nobody to sing his sad song, leaving nobody to carry him on. He's only a hobo, but one more is gone. Black on newspaper, the cover is sad. Was his pillow, the stick was his bed. I look at his face, shout to the high road it come, and a fistful of coins show the money it come. He's only a hobo, but one more is gone, leaving nobody to sing his sad song, leaving nobody to carry him on. He's only a hobo, but grazie. Nel 1980, alla curva dello stadio Franchi di Firenze, si svolse il concerto di Iggy Pop. Era appena uscito New Values e Iggy per l'occasione schierava una super band in cui suonava anche Ivan Krall, che faceva parte del Patti Smith Group, e il bassista di David Bowie. Ci andai in treno con Aldo Brando e Paolo, due amici punk della prima ora, Sid e Daniela. Quando Iggy montò sul palco restai un po' deluso, aveva i capelli corti, tinti di nero, e indossava pantaloni con la piega e la camicia bianca, sembrava un damerino, ma a metà del primo pezzo era già a torso nudo. Noi eravamo dietro la rete, molto distanti dal palco. A circondare il campo c'era una pista ad anello di terra rossa. Iggy e la sua band li vedevamo, ma piccolissimi. In mezzo, tra noi e loro, c'era una rete altissima e un mucchio di polizia in divisa. Dopo tre o quattro pezzi, Iggy cominciò a aizzare il pubblico facendo segno di avvicinarsi con la mano. Sid fu uno dei primi, naturalmente, perché conosce Sid. Se non il primo a saltare la rete e correre verso il palco. Un paio di agenti in borghese tentarono di acciuffarlo, ma lui si liberò di loro a suon di spintoni. Altri seguirono il suo esempio e lì fu l'effetto valanga. Tutti quanti si accalcarono contro la rete buttandola giù senza fatica, tra urla di giubilo e gli sbirri che si volatilizzarono. Appena arrivarono i primi punk sotto il palco di Iggy, lui si sdraiò e si mise a cantare con la testa a penzoloni oltre il palco e il filo del microfono avvolto attorno al collo, facendo finta di strozzarsi. È un numero che fa da anni, un suo classico. Alcuni punk cominciarono a sputargli addosso. Iggy si ruppe le palle di essere coperto di sputi, ma non lo dette a vedere. Anzi, con un dito si levò uno sputo dalla faccia e cominciò a leccarlo con la lingua, al che gli sputi cessarono. Quando lo vidi fare una cosa così, pensai che sul palco era il più forte di tutti. Give me danger, little stranger, and I feel your disease. Give me danger, little stranger, I feel with you at ease. There's nothing in my dream, just some ugly memories. Kiss me like the ocean dream. If you can be my master, I will do anything. There's nothing left alive but a pair of glassy eyes. Raise my feeling one more time. Find a little stranger, find a little stranger. Ciao Pippo, il mio cane preferito è la mascotte di Conchetta, 8 mesi non sentirli. Nel 79 formammo una nuova band, i Citachrome Motherfuckers o CCM. Sì, dall'inizio volevo suonare la batteria e alla voce prendemmo Tony Mancini, che poi è diventato il cantante di Traumatic. Le prime sessioni si tenevano nel pollaio di casa mia. A fianco della costruzione c'era un annesso agricolo che aggiustammo e tappezzammo di poster. Provavamo al pomeriggio, dopo abbondanti ascolti di Ramones, Divo, Suicide, Sex Pistols e Damned. Tony aveva una scarica di 45 giri punk a cui attingere e volevamo fare una band seguendo questo nuovo sound, anche perché c'eravamo rotti i coglioni del semplice rock, sentivamo una distanza abissale nei confronti dei nostri idoli, che ormai avevano il jet privato e vivevano in lussuosi villoni. In quegli artisti non ci riconoscevamo più. Tuttavia, ammiravamo alcune leggende degli anni 60-70, come Iggy Pop, Lou Reed e David Bowie. Nelle prime giornate di prova con la band suonavamo una cover di Vicious di Lou Reed, tiratissima, e anche Glad to See You Go dei Ramones. Per il resto facevamo pezzi nostri. Questa cosa della band, mia mamma l'aveva presa stranamente bene. Ogni tanto ci portava pure il caffè, emergendo dalle nebbie di fumo dei Cilum. Mio padre invece, suo padre era carabiniere, dopo 2 settimane non ci sopportava più. Facevamo così tanto rumore che non riusciva manco a sentire la televisione con il volume a palla. Oltretutto, a peggiorare le cose, c'era il viavai continuo di amici. Un giorno, su un muro in cima alla strada, comparve una grossa scritta a vernice spray nera: CCM drogati. Avevano ragione. E questo era uno dei nostri inni, quello che per noi rappresentava la ribellione adolescenziale di Addie and the Hot Rods. I know I must be someone, and I'm gonna find her too. Why don't you ask them what they expect from you? Why don't you tell them what you are gonna do? You get so lonely, maybe it's better. Ain't you only? You got something to say? Do anything you wanna do. Do anything you wanna do. Don't need no politicians. Tell me things I shouldn't do. No opticians, tell me what thou ever see. No one tells you nothing, even when you know they know. But they tell you what you should be. They don't like to see you grow. Why don't you ask them what they expect from you? Why don't you tell them what you are gonna do? You get so lonely, maybe it's better that way. It ain't you only, you got something to say. Do anything you wanna do. Do anything you wanna do. Do anything you wanna do. Grazie. Come potete immaginare, durante i concerti dei CCM noi eravamo piuttosto sconvolti. Tutte le droghe che si facevano. E il pubblico era conciato anche peggio di noi. I gestori dei locali ci chiamavano perché sapevano che avevamo dei fan e speravano così di fare dei soldi. Dopotutto noi eravamo la nuova musica che ascoltavano i giovani. Spesso al nostro arrivo, e soprattutto quando vedevano il nostro sgangherato seguito di teppisti di provincia, si pentivano di averci inventato. Ma ormai era troppo tardi per rimediare, ma una seconda volta non ci avrebbero mai più chiamato. A quei tempi il punk era qualcosa di davvero pericoloso. John Torre, un mio amico di Poviglio, ultimamente mi ha confessato che quando lui e i suoi compagni partivano per un concerto del CCM erano veramente impauriti. Non sapevi mai quello che sarebbe potuto succedere, ma ci venivamo lo stesso proprio per quello. Allora, in un disco solista avevo già massacrato un pezzo dei Ramones, I Just Wanna Have Something To Do. Stasera massacro questo. Chewing out the rhythm of a bubble gum. The sun is out and I want some. It's no time, no far to reach. You can eat your right to Rockaway Beach. Up on the roof, down on the street, down the playground, the hot concrete. Bus ride is too slow. The blast on the disco on the radio. Rock, rock, Rockaway Beach. Rock, rock, Rockaway Beach. Rock, rock, Rockaway Beach. You can eat your right to Rockaway Beach. reach. You can hitch a ride to Rockaway Beach. It's not that no far to reach. You can hitch a ride to Rockaway Beach. You ain't got the rhythm of my bubble gum. The sun is out and I want some. It's not that no far to reach. You can hitch a ride to Rockaway Beach. Up on the roof, down on the street, down the playground, the hot concrete. Bus ride is too slow. The blast on the disco on radio. Rock, rock, Rockaway Beach. Rock, rock, Rockaway Beach. Rock, rock, Rockaway Beach. You can hitch a ride to Rockaway Beach. Rock, rock, Rockaway Beach. Rock, rock, Rockaway Beach. Rock, rock, Rockaway Beach. You can hitch a ride to Rockaway Beach. Si potrebbe andare avanti. Facciamo solo tutta la sera. Eccoci, questo è il 1984, che è un anno importante per Dome. Nell'estate dell'84 ebbe un incontro ravvicinato con uno dei miei idoli, Nico. Ricevetti una telefonata dalla mia agenzia, che era la stessa che gestiva il suo tour in Italia, la cui prima data era proprio Pisa. La gente mi disse che per un errore Nico era arrivata in Italia con una settimana di anticipo ed erano già 4-5 giorni che l'agenzia pagava l'albergo a lei e a suo figlio. Tra l'altro era la prima volta che i due si rivedevano dopo 10 o 12 anni. Ari era la fotocopia di suo padre, Alain Delon. Nico e Ari erano entrambi eroinomani. Lei aveva cominciato a usare la roba proprio per il dolore causato dalla separazione forzata con il figlio, e non ai tempi del Velvet Underground, come tutti credono. L'agenzia mi chiese di ospitare mamma e figlio per 3 giorni, e io accettai. Il tour sarebbe partito proprio dal Victor Charlie, che è questo famoso locale pisano, culla del punk, che da lì a poco avrebbe chiuso i battenti. Li andai a prendere in albergo. Avevo preparato 2 letti singoli nel salotto di casa mia. All'inizio i rapporti non sono stati idilliaci, perché Nico era una di quelle persone a cui garbava provocare, tirare la corda fino a un minuto prima che si spezzi. Lei e Ari erano affamati, per cui cucinai una pasta. Lei avrebbe voluto pasteggiare a Coca-Cola, ma io non l'avevo. In compenso avevo del buon vino, ma Nico rispose che il vino non lo beveva. Siccome era vegetariano, condì la pasta con del semplice sugo al pomodoro. Dopo qualche forchettata, puntò una bottiglia di amaretto di Saronno che era sull'armadietto della cucina. In ottimo italiano chiese: posso avere un sorso di quello? Hai voglia, le risposi. Ce l'ho io dal matrimonio e non l'ho mai aperto. Pensai che l'avrebbe bevuto dopo pranzo, invece le ingollò tra una forchettata e l'altra e le piacque pure. Questo è la prima canzone che ha inciso Nico nel 65, si chiama The Last Mile. Them flow. Rivers are made for blowing, so why not let them blow? Show me a little ladder, show me a little smile, so we'll start on the last mile. Children's mind are crippled, black is what they see. Man's mind is matter, so why not let him see? Show me a little ladder, show me a little smile, cause we started on the last mile. Flowing, so why not let them flow? for blowing, so why not let them blow? Show me a little ladder, show me a little smile, 'cause we started on the last mile. Aspetta Fabio, faccio questa. She comes, you better watch your step. She's going to break your head in two. That is true. It's not hard to realize. Just look into her fat, colored eyes. She builds you up to put you down. What a clown, 'cause everybody knows she's a femme fatale. The thing she does to please, she's just a little tease. See the way she walks, see the way she talks. Hidden in her book, your number 37, never look. She's gone to play you for a fool, that is true. Little boy, she's from the street, because you start, you already beat. She's gonna play you for a fool, that is true. 'Cause everybody knows she's a femme fatale. The thing she does to please, she's just a little tease. See the way she walks, see the way she talks. 'Cause everybody knows. Whoa, whoa, whoa. Grazie. Cioè, addirittura la luce. Allora, voi immaginate di andare a casa e di buttare via i dischi fatti da gente che non si droga. Praticamente butteresti tutti i dischi buoni che avete a casa. Questa è una riflessione a margine. Poi torniamo al libro. Qua siamo sempre nel 1984. Si vede una sega, ma ce la faremo. Ok? Adesso no, adesso meglio, ok? E parliamo di Johnny Thunders. Siamo sempre nel 1984 nel libro. Johnny Thunders, un po' come Iggy Pop, per noi era l'emblema vivente del proto-punk. Uno che nel pieno dell'era hippie suonava già roba in controtendenza. Quando le band californiane scrivevano canzoni su pace e amore, lui parlava di disperazione e disillusione e si sfondava le vene. Era un loser come noi. Tra le leggendarie band proto-punk c'erano i New York Dolls, di cui Johnny faceva parte, ma anche gli MC5, gli Stooges, due gruppi cult di Detroit. I New York Dolls avevano un atteggiamento particolarmente provocatorio e trasgressivo sul palco. Vestivano da donna e usavano i simboli della Russia comunista in America nel periodo della Guerra Fredda. Avevano un'attitudine punk quando il punk non era ancora nei pensieri di nessuno. Poi salto qualche riga, adesso arrivo qua. Ok. Al di là dello stile chitarristico, che mi piaceva, Johnny mi faceva un sacco di tenerezza a livello personale. Era un tossicomane che scriveva canzoni romantiche. Anche se non lo conoscevo personalmente, mi ci sentivo molto vicino perché avevo letto una sua intervista che mi aveva fatto stringere il cuore. Mi appariva fragile e disilluso. Alla domanda dell'intervistatore che gli chiedeva cosa avrebbe voluto fare se non fosse diventato una rockstar, aveva risposto: il clown triste. Forse lì, immaginandomelo col cerone bianco e la lacrima nera, ho intuito la sua vera natura. go back to go. If you have a think you will know. Do you know? I think he shows that you know. Go back to go. To go, back to go, back to go, back to go, back to go. Grazie, grazie. Lance Hampson e sua moglie Jeanette furono ospiti da me. Lei era una donna molto affascinante e colta, era bionda, con gli occhi verdi, perché suo nonno era francese, ma conservava anche forti caratteri nativi. Lance parlava poco, durante il viaggio non proferì parola. Per offrire il massimo dell'ospitalità, lasciai loro la camera da letto matrimoniale. Dopo un paio di giorni che erano ospiti a casa mia e in cui mi parlava quasi solo Jeanette, cominciai a essere insofferente. Continuavo a ripetermi mentalmente, anche se sono un bianco di merda, sto facendo tutto il possibile per metterti a tuo agio. Gli feci ascoltare la canzone che avevo scritto con le parole della sua poesia, ma la cosa non sortì grandi entusiasmi. Stavo cominciando a scazzarmi a causa del suo atteggiamento distaccato. In realtà Lance mi aveva studiato da 2 giorni e il terzo giorno mi convocò in salotto e, guardandomi fisso negli occhi, mi strinse tutte le 2 le mani con le sue manoni robuste e mi disse: mio fratello è morto di overdose nella riserva a 31 anni. Avevo solo lui come fratello. Noi possiamo adottare altre persone della nostra famiglia. D'ora in poi tu sei mio fratello per sempre. Io rimasi a bocca aperta. E quando per lui questa cosa fosse vera e profonda, l'ho scoperto poi negli anni a venire. Allora io vi dico, io sono 1,50 m, non ci vedo niente. Aspetta, adesso ti faccio luce io. Ce la fai a legge? Te la faccio luce io. Non si vede una minchia, non riesco a leggere. Non, si, non leggo una minchia, ve lo dico subito. Ho bisogno di una luce. Ti fa luce. Guarda, con questa lucina qui del cazzo, aspetta. Ce l'hai fatta? Allora, no, chiudiamo questa parentesi orribile. Lance Hampson. Questa sera piove. Sulle pianure aride di Wounded Knee, sugli Hogan alla grande montagna, sulle barricate a Cornwall Highland, sulla terra rossa alla tomba di Geronimo in Oklahoma, questa sera piove, sui resti bruciati delle case di Oka, questa sera piove, nei sogni dei bambini in Salvador, e Nicaragua e San Carlos, nei sogni delle madri in Brasile, in Cile e a Pine Ridge, a Wind River. Questa sera piove, è una pioggia antica, nel vento gelido dell'inverno c'è una preghiera. She was, she win, she was, she win. Noi non verremo spazzati via. Noi non verremo spazzati via. curtain on the barricades at Cornwall Island under the dirt at Geronimo's grave in Oklahoma. Tonight it's raining. Talking blues alla sosta dei camion. Tutti i poeti sognano. I veterani si svegliano in un letto di sudore. Il tatuaggio di una serpe trema sulla gamba di una ballerina addormentata. E tutti svegli nello specchio della vita di qualcun altro. I quadri di Van Gogh si fanno umidi di lacrime e della grigia follia di mezzanotte. E gli adorabili paesaggi di Rembrandt si sciolgono nella tua mano. Nella stanza accanto un sassofono piange, mentre un gatto addormentato tira zampate in aria. La luce blu della stufa a gas sibila. Tu entri nella stanza con il tuo profumo parigino. Dietro di te la luna piena è una roulette che sta insieme grazie a un vino cattivo e a sogni sottili. Un vecchio cane in strada sussulta nell'aria italiana. Una centrale nucleare luccica come una stella. Un ragazzino spruzza le parole pioggia mortale sulle pareti della cattedrale. E io penso a cavallo pazzo e a toro seduto in qualche sosta notturna per camion in Nebraska. Sorridono travestiti mentre parlano di un'America che muore e del bisonte che sta per tornare. Anche questa, parlando blues alla sosta per camion, è un'altra poesia che Lance ho avuto l'onore di ricevere da lui come regalo, quindi ci ho fatto una canzone. The poets are dreaming the way. tattoo of a snake, keep us on the leg of a sleeping topless dancer. And you wake up in the mirror of someone else's life, someone else's life. You walk into the room in your Paris perfume. The room is a roulette wheel over your shoulder, held together by bad wine, by bad wine and teen dreams. A nuclear power plant glows like a star. Grazie, grazie a Lance. Tira sul microfono, basta il microfono. A un incontro dove avrebbero festeggiato il compleanno di Fernanda Pivano, la loro idea era quella di invitare tutti gli artisti che in Italia avevano realizzato un brano musicale tratto da una poesia della Beat Generation. Io ne avevo registrato uno, uscito solo su un CD, tratto da una poesia di Lawrence Ferlinghetti, The Man Who Rode Away. Pensavo che l'idea di fare della musica a partire dai poemi della controcultura americana l'avessero avuto in molti, invece non era così. Accettai e mi inviarono una cassetta con incisa la voce di Allen Ginsberg, che cantava una sua poesia di 3 o 4 strofe accompagnata dall'armonium. Io dovevo imparare una strofa perché poi sul palco avrei dovuto suonare e cantare insieme a lui questa poesia in cui lui proclamava: «Sono una checca comunista!». Il giorno dell'evento avevo la febbre a 38 ed ero disperato, ma non potevo rinunciare a un appuntamento così importante. A Mariella toccò guidare fino a Conegliano, io reclinai il sedile e mi imbacucai nel sacco a pelo. Arrivato là non ebbi la forza di cantare perché ero stremato dalla febbre. In questo teatrino di Conegliano ci avevano riservato i posti in prima fila. Sedevo di fianco a Dori Grezzi, la moglie di De André. Tra gli invitati c'erano anche De André stesso, Claudio Lolli, Gianni Pierietti e Francesco Guccini. Cenammo in un albergo di un super lusso dove sgambettavano senza soldi per premurosi camerieri tutti infiocchettati. Da Fernanda Pivano mi fece autografare C'era una volta al Beat. E poi mi sedetti di fianco ad Allen Ginsberg. Avevo 2 edizioni italiane dei suoi libri, L'Urlo e La poesia degli ultimi americani, che mi sono fatto autografare, mannaggia. Lui mi chiese: «Quanti anni hai?». Gli dissi che ne avevo 37 e lui mi disse: «Una delle età più belle della vita». Io invece: «Magic number, 69. Adesso Cristina ci legge un pezzo dall'Urlo. Il passo della luce. Alto e giusto? Sì. Papà. Attenzione che questo, poesia più famosa del Novecento. L'occhiali. Con cazzo. Holly, holly, holly, holly, holly, holly. Santo, Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, il mondo è santo, l'anima è santa, la pelle è santa, il naso è santo, la lingua, il cazzo, la mano, il buco del culo sono santi, tutto è santo, tutti sono santi, dappertutto è santo. Tutti i giorni sono nell'eternità, ognuno è un angelo. Il pezzente è santo come il serafino, il pazzo è santo come la tua, mia anima sei santa. La macchina da scrivere è santa, la poesia è santa, la voce è santa, gli ascoltatori sono santi, l'estasi è santa. Santo Peter, Santo Allen, Santo Solomon, Santo Lucien, Santo Kerouac, Santo Hack, Santo Barros, Santo Cassidy, santi gli sconosciuti mendicanti, sodomiti e sofferenti, santi gli orrendi angeli umani. Santa mia madre nel manicomio, santi i cazzi dei nonni del Kansas, santo il sassofono gemente, santa l'apocalisse del POC, santi gli hipster di jazz e marijuana, pace, strepp e tamburi, sante le solitudini dei grattacieli e delle strade, sante le caffetterie piene di milioni, santi i misteriosi fiumi di lacrime sotto le strade. Santo il Jürgenan senza compagni, santo il vasto agnello della borghesia, santi i pazzi pastori della ribellione, chi capisce Los Angeles è Los Angeles, santa New York, santa San Francisco, santa Peoria, santo Seattle, santa Parigi, santa Sangeri, santa Mosca, santa Istanbul. Santo tempo nell'eternità. Santa eternità nel tempo, santi gli orologi nello spazio, santa la quarta dimensione, santa la quinta internazionale, santo l'angelo di Morlock, santo il mare, santo il deserto, santa la ferrovia, santa la locomotiva, santa le visioni, santa le allucinazioni, santi i miracoli, santa la pupilla, santo l'abisso, santo perdono, pietà, carità, fede, santi nostri corpi, sofferenza, magnanimità. Santa la soprannaturale, ultrabrillante, intelligente gentilezza dell'animo. E dopo Ginsberg mi hanno proposto questo medley di canzoni di Charles Manson. Garbage dump, my garbage dump. Why you call my garbage dump? Garbage dump, my garbage dump. The sun sees up in a one big lump. When you're living down on the road and you think sometimes you're starving, I don't even care who wins the war. I've been the Caribbean, my favorite store. Oh, garbage dump, my garbage dump. Why you call my garbage dump? Garbage dump, my garbage dump. The sun is up in a wambi lump. Sick city, restless people from the sick city burn the young down to make the sky look pretty. What can I do? I'm just a person. This is the line we always seems to hear. You just sit, thinks of words and watch TV and drink your beer. Walking on a lawn, not going anywhere. Walking on a lawn, nobody seems to care. Restless as the wind, this time is killing me. Go to put an end to this restless misery. I'm just one of those restless people, can never seems to be satisfied. We live in sick old, sick, sick old, sick city. It may be too late for me to say goodbye. and I might be too late to watch old 60 die. Walking on alone, oh yeah, I'm gonna try to say 60 this so long. Farewell and die. Grazie. Allora, ora facciamo un salto in avanti nel tempo, qua siamo nei primi anni 2000 e si parla di questa band che è ancora attiva, che si chiama Diggers, e questa è la fondazione. Vabbè, diciamo che, comunque, per me i Diggers sono stati un ritorno al rock and roll e al punk. I brani li scrissi quasi tutti io, a parte un paio che feci con Diletta. Area Pirata, come sempre, ci diede subito una mano pubblicando un 7 pollici. E poi la Godown ci produsse un LP, dove compare anche una hit dei Diggers, Blue Stranger Dancer, che scrissi dopo aver lavorato per qualche mese come DJ in un nightclub di Viareggio. Un luogo dove ho incontrato molta più umanità che in altri posti cosiddetti normali. Ci lavoravano come stripper una ventina di ragazze che mi raccontavano le loro storie e i loro sogni. Anche se mi trovavo bene, dopo un po' cominciai a non reggere più lo stress fisico e mentale di stare dalle 22 fino all'alba, 5 sere a settimana con ragazze super sexy, quasi sempre discinte, facendo finta di niente. Quella routine era diventata un po' impegnativa e così mollai il colpo. Da quell'esperienza particolare è nata una bella canzone, che anni dopo ho rifatto anche una versione acustica che ora sentiamo. Maestro Dome. Someone lost his money, somebody went to jail. One is dead for her, somebody's gone to hell. Someone became crazy, waiting for a love, but you don't mind. You don't mind my mind, you need a lie, you're just looking for a lie. Gathered soul, she lives under the rain, and no one knows her pain. She hides her crystal dreams in the same place where she cries, but you don't mind. You don't mind my mind, you need a lie, you're just looking for a lie. Stranger dancer, blue, stranger dancer. She sold you some of her kisses. She sold you all the smile, but you don't mind. You don't mind my mind, you need a lie, you're just looking for a lie, but you don't mind. You got my mind, you need a lie, you're just looking for a lie. What you got? Grazie. Allora, questa è l'ultima lettura. Vi ricordo che i quadri sono in vendita, a parte quello centrale che ho deciso che me lo compro io, quindi sì, così no, mi metto in salotto una cosa che mi piace, che era un po' che la volevo. Però gli altri, insomma, dobbiamo tenerli qua a Milano, no? Non capita tutti i giorni di vedere roba di questo tipo. No, io è già andato, quello me lo compro io. Dai! No, ma io ce l'avevo per l'azione, sono l'autore del libro. Allora, cerco di stare in piedi e di vederci qualcosa. Questa è la chiusa. Pur essendo entrato nella settima decade della mia vita, resto la pecora nera della famiglia. Sono ancora sempre comunque dalla parte del torto. I miei figli, essendo di un'altra generazione, sicuramente mi vedono come un babbo un po' naif, fuori dal tempo, che non è mai riuscito ad adattarsi alle regole e agli standard di un mondo senza utopia come questo. Io al domani non ho mai pensato, ho sempre vissuto in un eterno presente, con una tensione diretta alla realizzazione dei miei sogni e alla ricerca di un senso di giustizia, equilibrio e bellezza che ho sviluppato nella mia adolescenza, turbolente e ribelle. Non ho mai pensato ai soldi e alla carriera, neanche quando mi presentavano valigie di soldi in cambio della mia arte. Ho sempre preferito avere pieno controllo di me stesso e non dover mai dire sì signore o baciare le mani. In questo paese vivere d'arte è un lusso. Se sei nato in una famiglia umile, farlo è praticamente una missione kamikaze. Posso dire di aver sempre vissuto le cose fino in fondo, senza compromesse, rifuggendo alla notorietà, e non ho nulla da rimpiangere, anche se ora ne pago le conseguenze. Così capita anche che i miei figli siano costretti a darmi una mano invece del contrario. Tuttavia, nel bene e nel male siamo molto uniti, ci vogliamo bene e ci stimiamo. Tra le mille mancanze di padre, ho provato ogni giorno a tramandare loro che un mondo senza arte, bellezza e utopia non è che un posto vuoto, triste e banale. L'arte è un modo per cambiare le cose, ma certo non basta una schitarrata per raddrizzare le strutture che ci affliggono. Sono convinto, come dissero tanti anni fa i miei amici Pelle Rossa, il militante Frank Driver e Liu Gurwitz, avvocato di Leonard Peltier, che se vuoi fare davvero qualcosa di buono per il pianeta, la nostra madre terra, devi consumare il meno possibile e boicottare il più possibile. Ogni iniziativa che va in direzione della sostenibilità e della giustizia sociale va sostenuta con anima e corpo, per far sì che questo mondo non sia un parco giochi per pochi ricchi, sempre più ricchi, ma un luogo dove tutti quanti abbiano lo spazio per vivere con dignità, nel rispetto delle differenze, della libertà e dei desideri dei singoli. Dalla parte del torto è dedicato a chi, nato dalla parte sbagliata, non può smettere di lottare per non essere schiacciato. Grazie. Questa era l'ultima pagina del libro, che io e Fabrizio ci abbiamo messo un po' a farla, questa ultima pagina, perché non ci piaceva mai la chiusura, no, del libro. E abbiamo voluto sottolineare il concetto di utopia, no, che in genere è una parola che normalmente viene vista come qualcosa di astratto, una bella idea comunque non realizzabile. Invece sia per la mia generazione che anche per quella di Fabrizio, anche se è più giovane, sì, abbiamo lo stesso concetto, ovvero per noi l'utopia è comunque un punto di partenza per realizzare dei sogni, è la creazione di una visione. Niente, noi volevamo cambiare il mondo e un po' l'abbiamo cambiato, abbiamo fatto alcune conquiste che però non sono per sempre, quindi vanno custodite molto gelosamente difese. Intanto noi continuiamo a stare dalla parte del torto, grazie a tutti. Fratelli e sorelle. Qua. Volevo dire una cosa proprio in interesse personale, che lì ci sono le mie magliette, i miei poster, il libro e CD, frugatevi per favore, perché noi dalla pandemia non si guadagna più una sega, e per cui frugatevi, se volete che l'arte vada avanti dovete sostenere gli artisti. Come si dice a Milano, una mano sul cuore, l'altra sul portafogli, ecco. Yeah.